la sua relazione che è riportata nel programma è errato, è improprio, e quindi dirà lui esattamente il titolo più preciso. Comunque la sua comunicazione verte su Lorenz von, su Rudolf von Kneist. Sì, occorre proprio inizialmente che precisi perlomeno l'oggetto, ecco, più che il titolo in se stesso, della mia relazione, nel senso che, ecco, il titolo che vedete riportato sarebbe tutto sommato l'oggetto di una ricerca più vasta che sto facendo, di cui oggi vorrei esporre soltanto una parte. Ricerca sulla amministrazione prussiana e sull'opera di Rudolf von Kneist, il rapporto principalmente proprio al tema dell'autogoverno, della Selbstverwaltung. Oggi vorrei parlare unicamente di una materia, che è la giustizia amministrativa, che anche per, soprattutto per ciò che riguarda l'opera di Rudolf von Kneist è di enorme importanza, essendo stato Kneist l'ispiratore di quella riforma della giustizia amministrativa prussiana che vediamo realizzarsi attraverso una serie di leggi nel periodo compreso grosso modo fra 1872, allorché viene approvata la Kreisordnung, e 1883, allorché viene varata la legge sulla Allgemeine Landesverwaltung. Naturalmente quello che dirò oggi, più che un'esposizione di, questo, di questa legge, vorrebbe essere una ricostruzione sintetica, schematica, del problema della giustizia amministrativa in Prussia, ricostruzione che consenta perlomeno di individuare quelle che secondo me sono due grandi periodi di questa storia, cioè della storia della giustizia amministrativa, due grandi periodi che, in cui vediamo porsi questo problema in conformità con interrogativi ed esigenze diverse, e che potremmo separare, soprattutto diciamo per ragioni convenzionali, per ragioni di comodità, potremmo individuare come linea di demarcazione gli anni compresi fra l'Assemblea Nazionale di Francoforte, cioè il 48, e il 1850, anno in cui entra in vigore la Costituzione prussiana, anni che secondo me rappresentano, se vogliamo, una specie di zona franca fra questi due grandi periodi. Due grandi periodi, dicevo, che si può leggere sia da un punto di vista di continuità, per problemi, per interrogativi che emergono sia prima che dopo, sia da un punto di vista di separazione, essendo enormemente diverse, o perlomeno di gran lunga diverse, le questioni che determinano, che portano in qualche modo al varo di certe leggi relative ad un controllo più o meno istituzionale, più o meno diciamo perfezionato sull'operato dell'amministrazione, diversi, dicevo, proprio per il fatto che di mezzo c'è in qualche modo la questione costituzionale, cioè il passaggio della Prussia da una monarchia assoluta ad una monarchia che dovrebbe essere, almeno formalmente, una monarchia costituzionale. Il momento iniziale, di cui, diciamo il punto centrale di cui vorrei parlare inizialmente, sta proprio in un articolo approvato dalla Nationalversammlung di Francoforte il 20 dicembre 1848, articolo che sarebbe stato inserito prima nella Carta fondamentale dei diritti, della Carta dei diritti fondamentali del popolo tedesco, e poi, pochi mesi dopo, nel Verfassung Urkunde, nel Reichsverfassung Urkunde, cioè praticamente in questo documento che avrebbe dovuto porre le basi di una costituzione dell'impero, articolo che nel primo documento reca il numero 49, nel secondo documento verrà mutuato pari pari col numero 182. Questo articolo dice, nella sua formulazione precisa, questo: la giustizia dell'amministrazione, Verwaltungsrechtspflege a termine, per ogni violazione del diritto decidono i tribunali. Questa è la formula diciamo in cui viene posto, in cui viene presentato questo articolo. Articolo che l'Assemblea di Francoforte aveva, diciamo, approvato dopo alcuni mesi di dibattito, perché la prima proposta viene durante il primo giugno di questo anno, 1848, da parte di un deputato della Curassia, che si chiama Wilhelm Wipperman, il quale praticamente proponendo che per ogni questione giudiziaria, ivi comprese quelle che in qualche modo concernevano il rapporto fra amministrazione e cittadini, dovessero decidere i tribunali ordinari. Nella Curassia, questo articolo, contenuto nella Costituzione del 1831, col numero 113, comma secondo, stabiliva esattamente che fosse il giudice a decidere anche su queste materie sulla base delle leggi o di principi giuridici riconosciuti in vigore in questo paese. Il fatto che questo articolo venga approvato, e viene approvato, diciamo, dopo una lunga discussione in cui principalmente si discutono problemi formali, perché sono in molti a porre in discussione il significato di questo termine, principi fondamentali di diritto, che di fatto poi nell'articolo conclusivo non compare più. Il dibattito, dicevo, non verte quasi mai su questioni di fondo, tranne che per una unica obiezione che viene proprio da Robert von Moll, il quale è l'unico in questo contesto, nell'Assemblea di Francoforte, a sostenere che questa trasmissione completa, totale di competenze ai tribunali ordinari potrebbe avere degli effetti nocivi e che semmai occorrerebbe creare, o comunque occorrerebbe assicurare alla stessa amministrazione, un ambito di competenze giudiziarie riservato su alcune proprie materie, eventualmente ad assegnare ad un organo autonomo ma interno all'amministrazione che su queste stesse materie avesse una competenza, una conoscenza, diciamo, maggiore di quanto ne potessero avere i giudici ordinari. È un problema che rimarrà fondamentale in tutta quanta la vicenda di cui sto parlando, anche nel caso prussiano. C'è il problema di questa presunta, vero presunta incompetenza dei giudici ordinari a decidere sulle questioni di diritto amministrativo, ed è un problema nel quale, secondo me, ecco, di volta in volta verranno fatti passare, verranno sottintesi, verranno adombrati dei problemi politici di diversa natura. Di fatto questo articolo non ebbe una grande rilevanza sul piano applicativo, perché non venne genericamente mai applicato in nessuno degli stati tedeschi, non venne perlomeno applicato in questa sua forma, anche perché questa forma era decisamente ambigua, nel senso che si scriveva devono decidere i tribunali, senza specificare se questi tribunali dovessero essere quelli ordinari o se invece non occorresse piuttosto creare dei tribunali amministrativi che appunto esaminassero queste questioni. Il significato in questo contesto era sicuramente quello di assegnare queste competenze ai tribunali ordinari, in conformità col fatto che i liberali, quegli stessi liberali che in questa sede ottennero un indubbio successo, un indubbio trionfo, avevano in vista proprio il proposito di superare la struttura genericamente indicata come Polizeistaat, cioè praticamente quella struttura che prevede un'indipendenza il più possibile vasta dell'amministrazione da qualsiasi controllo esterno. Superarla in che senso? Nel senso di far regolamentare a norma di legge i rapporti fra amministrazione e cittadini, apposta poi per creare le basi affinché un giudice ordinario potesse poi deliberare. Cioè, a quel tempo mancava tutto sommato questo elemento fondamentale, che era tutto sommato il diritto amministrativo come tale, o perlomeno il codice di diritto amministrativo, così come continuerà a mancare anche più avanti, e su questa base da parte dei liberali c'era l'intenzione perlomeno di creare una cosa del genere affinché poi i giudici potessero effettivamente procedere. Dicevo, questo articolo non troverà mai applicazione, di fatto quando si comincia a parlare di giustizia amministrativa in Germania dopo il 50, con il primo episodio fondamentale che sarà la legge del Baden del 1863, questo articolo verrà applicato nel senso di creare dei tribunali di diritto amministrativo e quindi di creare una struttura completamente nuova che nell'esperienza di questo periodo, cioè nell'esperienza che va fino al 50, era qualcosa di assolutamente inedito. D'altra parte, per i liberali della Germania meridionale, specialmente del Baden, del Württemberg e della Baviera, si trattava anche, approvando questo articolo, di liquidare gli ultimi residui della dominazione napoleonica, la dominazione che ancora aveva lasciato in questi stati una traccia profonda proprio nel campo della giustizia amministrativa, perché ancora esistevano il Consiglio di Stato napoleonico e i consigli periferici di circolo di prefettura, così come prescritto proprio dal Code Napoleon. Si trattava, cioè, secondo queste persone, di fare in modo che a decidere se un qualsiasi reclamo, una qualsiasi querela contro l'amministrazione, si trattava, dicevo, di impedire praticamente che fosse lo Stato, che fosse l'amministrazione, a decidere se una qualsiasi querela dovesse essere trattata per vie interne o non piuttosto delegata ai tribunali tramite un procedimento regolare, ordinario, di contenzioso. Il punto per i liberali era proprio quello di impedire, di fare in modo che finalmente l'amministrazione non avesse più questo potere, questa facoltà di decidere per conto proprio, sulle proprie questioni interne, di essere giudice in causa propria, quindi determinando in maniera arbitraria, comunque in maniera sicuramente non formalizzata, non codificata, quali dovessero essere gli interessi privati e pubblici da difendere interiormente e quali invece quelli da assegnare ad un potere esterno, il quale appunto sarebbe stato un potere più imparziale, più efficace, almeno da un punto di vista di giustizia. Ora, in Prussia, dicevo, questa esperienza, diciamo questo modello che i liberali cercano di far passare e che sarà poi noto in seguito col termine Justizstaat, questo modello era già qualche cosa di noto. Questa è la tesi, una delle prime tesi, forse la tesi più importante che vorrei sottoporre, il fatto che la Prussia avesse già fatto in passato un'esperienza di Justizstaat. L'avesse fatta nell'ambito di una sola provincia, la Nuova Prussia orientale, e per un periodo di soli 11 anni, però un periodo che era già stato sufficiente ai prussiani a conoscere quanto fosse nociva questa delega, quanto fosse nocivo questo controllo dei tribunali ordinari sull'amministrazione, il quale, come sostiene per esempio Inze, come sostenuto più tardi Inze, condusse un po' alla volta ad una paralisi dell'amministrazione intera. Questo perché? Perché evidentemente dal momento che a quel tempo i giudici, in mancanza di leggi, decidevano sulla base di principi giuridici generici, che poi praticamente erano le libertà e i diritti naturali dell'individuo, era sufficiente che un atto amministrativo violasse in qualche modo la libertà individuale o la libera proprietà individuale perché i giudici lo dichiarassero non valido. Sarebbe a dire che in presenza di un qualsiasi reclamo, se si fosse accertato, se il giudice avesse deciso che l'atto amministrativo per l'appunto era tale da nuocere al privato, questo atto veniva automaticamente cassato. E questo naturalmente portava degli inconvenienti notevoli all'amministrazione, impediva in gran parte il funzionamento del suo meccanismo. A quell'epoca, cioè torniamo un attimino nel 50, dicevo, c'era soltanto uno Stato in Germania che avesse realizzato in qualche modo questo modello, Justizstaat, che in breve, in poche parole, si può intendere in questa maniera. Si può intendere, cioè, come un modello in cui viene supposto una doppia personalità giuridica dello Stato, come potere pubblico e come soggetto privato, come fisco, laddove poi i rapporti fra amministrazione e cittadini sono intesi in una chiave quasi esclusivamente privatistica. Cioè, il discorso della Justizstaat portato avanti dai liberali è proprio quello di privatizzare il più possibile i rapporti fra amministrazione e cittadini, apposta per poterli sottoporre alla giurisdizione dei tribunali ordinari, quindi per sottoporli ad un controllo di ordine esterno, neutrale. Questo modello, dicevo, aveva già trovato un'applicazione nella Curassia, a partire appunto dal 31, ma l'aveva trovata nell'ambito di un paese, di uno Stato, che secondo Gneist, giustamente, secondo Gneist aveva delle caratteristiche talmente particolari, talmente specifiche, che in altri paesi, ivi compresa soprattutto la Prussia, l'avrebbero resi inapplicabile. Perché? Perché si trattava ancora di quello che si dice un Kleinstaat, un piccolo Stato, nel senso che in questo contesto l'apparato amministrativo e l'apparato giudiziario non erano ancora separati. Praticamente i giudici stessi, i tribunali stessi, non si erano ancora specializzati, dice Gneist, unilateralmente, nei termini e nei modi della procedura ordinaria, cioè civile e penale, erano ancora dei Beamten alla pari degli altri funzionari dello Stato e quindi avevano ancora una conoscenza soprattutto non solo dei Polizeiordnungen, dei regolamenti interni all'amministrazione, ma anche delle esigenze e delle aspettative che sono connesse con l'operato dell'amministrazione, ivi compreso soprattutto quel margine di discrezionalità che l'amministrazione deve avere per poter operare. Cioè, in altre parole, non si era posto nella Curassia quel problema che già la Prussia aveva conosciuto e non aveva risolto, di che rapporto istituire fra la legge come norma generale che regoli il comportamento dei funzionari e la discrezionalità che deve essere riconosciuta ai funzionari medesimi apposta per poter agire efficacemente. Problema che naturalmente avrebbe chiamato in ballo ancora una volta l'esigenza di un diritto amministrativo, di un codice di diritto amministrativo che regolasse la faccenda. Bene, nella curasse tutto questo non c'era ancora, esisteva ancora, se vogliamo, una certa unità di questi due poteri, e questo faceva sì che i tribunali fossero in qualche modo nella condizione di poter operare in questo contesto. In Prussia tutto ciò non c'era più almeno da, direi, 60-70 anni, cioè diciamo ancora prima dell'entrata in vigore dell'Allgemeines Landrecht, laddove i giudici, i tribunali provinciali, gli Justizkollegien, che erano praticamente quanto rimaneva dai vecchi Regierungen provinciali, avevano già in qualche modo acquisito una loro autonomia di giudizio, una loro, diciamo, autonomia operativa rispetto al parere, ai poteri del monarca, ai poteri, diciamo, di sorveglianza, di Aufsicht del monarca, potevano decidere autonomamente, ma proprio per questo avevano preso ad operare in termini e su materie e in forme quasi esclusivamente, diciamo, d'ordine civile o penale. In qualche modo, da quell'epoca in poi, i giudici non avevano, secondo Gneist, né a livello di formazione, quindi né a livello di scuola, né a livello di pratica quotidiana, un rapporto di un qualsiasi tipo con la prassi amministrativa e con le esigenze di questa prassi medesima. In Prussia, dicevo, si è avuto un'esperienza di Justizstaat nell'ambito della nuova Prussia orientale, di questa nuova provincia che era stata acquisita, che era stata creata a seguito della terza spartizione della Polonia. Si era avuta a partire dal 97, dal 1797, e la data esatta non so, probabilmente non la troverò, comunque, allorché praticamente Svarez, Karl Gottlieb Svarez, fece firmare al monarca il regolamento per la nuova Prussia orientale, regolamento sulle competenze e sull'operato dei collegi territoriali di questa nuova provincia. Regolamento ove di fatto veniva espresso fin dal punto primo che qualsiasi competenza in materia giudiziaria sarebbe spettata proprio ai tribunali, sarebbe spettata proprio a questi organi collegiali che agivano separatamente dalle Camere. Se vogliamo, durante tutto quanto il Settecento, in Prussia, il problema della giustizia amministrativa si pone proprio in questi termini, cioè su come rapportare, su come, diciamo, coordinare, o in ogni caso su come risolvere il conflitto di competenza fra le Camere e i tribunali provinciali. Cioè praticamente fra questi nuovi organi amministrativi che erano stati creati da Federico e che corrispondevano nella loro struttura ad un grande Stato nazionale, e questi Regierungen, che invece erano la sopravvivenza dei vecchi governi provinciali, i quali agivano separatamente, si erano ridotti ad essere dei tribunali di diritto privato, potremmo dire, ma soprattutto la loro struttura, la loro, diciamo, conformazione era ancora quella del piccolo Stato di stampo cettual patrimoniale. Cioè esiste non soltanto, se vogliamo, un conflitto di competenze fra la giurisdizione delle Camere, che riguarda soltanto le materie di polizai, e quella di questi tribunali, che dovrebbe riguardare soltanto le materie di diritto privato. Non soltanto, dicevo, questo conflitto per il fatto che è sempre difficile, no, stabilire dove cominciano le prime materie e dove finiscano le seconde, ma esisteva anche un contrasto strutturale fra due, diciamo, strutture statuali che praticamente non erano omogenee, cioè la prima era di tipo estremamente avanzato per quell'epoca, la seconda era ancora di tipo retrivo. Come fare ad armonizzarle, dato che poi, in quello stesso periodo, i ceti territoriali, apposta per in qualche modo far fronte a questa manovra della monarchia, apposta per evitare che tutto sommato l'opera della monarchia fosse andasse troppo a fondo, fosse troppo ingerente nei loro interessi, si ostinavano a difendere sia i loro Regierungen, sia appunto le competenze dei loro stessi, cioè praticamente si ostinavano a sostenere che tra amministrazione e individuo esistono rapporti giuridici che per la maggior parte, quando proprio non riguardano esclusivamente il pubblico, cioè quando non riguardano esclusivamente la vita dello Stato, devono essere regolati appunto ancora da questi tribunali. Il fatto è che per tutta quest'epoca ci fu sempre l'impossibilità di risolvere il problema per il fatto che da un lato l'amministrazione aveva questa struttura estremamente perfezionata, estremamente potente, gerarchica, che era quella delle Camere, con il General Directorium, diciamo, all'apice, al vertice, e dall'altro lato invece c'era questo numero di tribunali sparsi sul territorio prussiano che non agivano mai in collaborazione, e che oltretutto risentivano della scarsa importanza, della scarsa efficacia dello Justizministerium prussiano, il quale come autorità superiore non era in grado però di garantire loro la tutela, la difesa dei loro ambiti di competenza. Bene, questa storia che dicevo culmina nel 1797 con l'approvazione di questo regulativ, è un po' la storia di un processo che va radicalizzandosi. Dal 1749, quando Coccei fa approvare questo ressort règlement, che dovrebbe in qualche modo separare le competenze giurisdizionali delle Camere e dei Tribunali, attribuendo Polizeisachen alle prime, Justizsachen alle seconde, fino alla fine del secolo, questo problema dei conflitti di competenza si ripropone costantemente. L'opera di Suarez, questo progetto, questo provvedimento che fa approvare, vorrebbe essere, se vogliamo, la soluzione radicale del problema, cioè togliere, in qualche modo, smantellare completamente la Camera di Justiz e attribuire tutte quante le competenze giudiziarie ai soli tribunali. Se non che, cosa succede? Per l'appunto succede che, specie nella Nuova Prussia orientale, si assiste a questa paralisi dell'amministrazione di cui dicevo prima. Tant'è vero che già nel 98, quanto racconta Hinze, venne richiesto all'Accademia Berlinese delle Scienze di elaborare un codice, potremmo dire, se non proprio di diritto amministrativo, ma di diritto pubblico, che comprendesse tutte quante le materie di polizia, finanziarie, eccetera, che avrebbe dovuto essere più o meno una sorta di analogo dell'Allgemeines Landrecht, il quale non venne, per quanto si sa, non venne elaborato, comunque non si sa nulla di come andò a finire questa faccenda, però già questo fatto è sintomatico che, tutto sommato, fin dal 98, cioè da un anno dopo il provvedimento di Suarez, era già avvertita la necessità di perfezionare in qualche modo il meccanismo della giustizia amministrativa, cioè potremmo dire di determinare in maniera più rigorosa, più precisa, più sistematica quali fossero le materie da trattare nell'ambito della giustizia ordinaria e quali invece quelle materie da riservare ancora una volta esclusivamente all'amministrazione, proprio per il fatto di impedirne in qualche modo la paralisi, impedirne la degenerazione. Questa prima parte della mia storia si conclude nel 1808, cioè quindi 11 anni dopo esattamente, la riforma di Suarez, allorché il ministro della guerra, il consigliere segreto per la guerra, von Friese, elabora un progetto valido per la Prussia occidentale e poi, di lì a poco, applicato su tutto il territorio prussiano, un progetto in cui ancora una volta si trattava di delimitare gli ambiti di competenza dell'una e dell'altra autorità, di risolvere ancora una volta i competence conflict. Friese opera in una maniera molto, molto rigorosa, se vogliamo, almeno da un punto di vista così sistematico, nel senso che distingue accuratamente Polizeisachen e Finanzsachen, intendendo le prime come di competenza unicamente dell'autorità amministrativa, e le seconde invece come di competenza dei tribunali. Naturalmente il punto fondamentale è questo, che Finanzsachen, il termine che lui usa e che intende in un'accezione esclusivamente privatistica, avrebbe dovuto comprendere sia le imposte pubbliche, sia i contributi di carattere fiscale, ossia uno dei limiti di questo progetto di Friese sta proprio nel fatto di non distinguere fra le imposte pubbliche da versare allo Stato come potere pubblico e i contributi da versare al fisco come titolare di diritti patrimoniali. Questo naturalmente era destinato a perpetuare, se vogliamo, il problema dei conflitti di competenza, se non apposta per il fatto che in questa maniera veniva comunque riconosciuta al cittadino la possibilità di sporgere reclami contro i provvedimenti fiscali che, a suo giudizio, l'avessero in qualche modo danneggiato. Se non che, ecco, Friese è molto rigoroso su di un'altra questione, o comunque molto efficace su di un'altra questione, proprio per ciò che riguarda il problema della legge. Il fatto che, secondo Friese, non debbano essere introdotte delle leggi che regolino in maniera sistematica queste materie, apposta per il fatto che, secondo Friese, non si può rinunciare, non si può misconoscere e non si può neppure determinare rigorosamente l'ambito di discrezionalità da assegnare all'amministrazione. In qualche modo il problema di questo rapporto precario fra legge e discrezionalità non viene risolto. E semplicemente Friese dice questo: occorre semmai cominciare a raccogliere, a catalogare, a classificare le Polizeiordnungen e tutti gli atti in qualche modo che concernono, che regolamentino l'operato dei funzionari, raccoglierli apposta per poterli poi usare come fonti, sia nell'ambito della procedura amministrativa, sia nell'ambito dell'operato dei giudici, dell'operato dei tribunali, una volta che loro venga trasmessa anche, se vogliamo, una causa di tipo amministrativo. Questa scelta di Friese, il fatto appunto di escludere contrariamente a quanto avrebbero voluto i liberali, la formalizzazione di tipo legale, fa sì, secondo Gneist e secondo lo stesso Hinze, che in Prussia non si parli mai, né adesso né poi, di creare dei tribunali di diritto amministrativo o dei tribunali di diritto pubblico, come si cominciò a dire a partire dagli anni 60. Per il fatto che non c'era assolutamente l'esigenza di creare questi organi, dal momento che appunto si poteva continuare tranquillamente a lavorare sulla base di questi atti catalogati, collazionati, e sulla base di quella distribuzione delle competenze che in qualche modo, ecco, Friese aveva introdotto. Ecco che allora, tornando agli anni 50, si può riparlare di quell'articolo di cui dicevo inizialmente. Il fatto che in Prussia questo articolo non venga assolutamente accolto neppure nell'ambito della Costituzione, perché la Costituzione prussiana non parla mai di delegare ai tribunali le competenze di questo tipo, le cause di questo tipo, il fatto che non se ne parli dipende, secondo me, fra le altre cose, perché naturalmente non è il solo fattore in questione, ma anche dal fatto che un'esperienza di quel genere, cioè un'esperienza di tipo Justizstaatlich, la Prussia l'aveva già fatta e ne sapeva bene in qualche modo i limiti, conosceva i danni di questa esperienza e li conosceva essendo, a differenza della Curassia, uno Stato già molto più sviluppato, un grande Stato nazionale, con delle esigenze quindi di tipo totalmente diverso. Il fatto è che già negli anni 50 il problema dei conflitti di competenza venne riproponendosi e non per nulla già nel 54 viene approvata nuovamente una legge che regoli questa materia. Legge che passa con una minoranza di voti, con una scarsissima, una maggioranza di voti molto scarsa, e che in qualche modo corrisponde agli orientamenti dei conservatori. I conservatori prussiani cosa dicono? Occorre difendere in tutti i modi l'indipendenza dell'amministrazione da qualsiasi controllo esterno, perché soltanto in questa forma, soltanto in questa maniera, si potrà fare in modo che l'amministrazione sia efficace. Sarebbe a dire, tutto sommato, come sostengono in molti, che nonostante l'introduzione della Costituzione, noi ci troviamo di fronte ad una situazione di questo tipo. La Prussia è formalmente una monarchia costituzionale, ma di fatto, nel contenuto, continua ad essere una monarchia, cioè continua ad essere un Polizeistaat. Schematicamente il discorso si presta, cioè il discorso può essere, diciamo, accettato, sottoscritto, se non che andrebbe poi spiegato come è possibile che uno Stato prussiano funzioni ugualmente nonostante questa frattura, questa contraddizione evidentissima. E a questo punto io accoglierei l'invito, in qualche modo, che faceva poco fa lo stesso Fioravanti, di studiare in qualche modo il comportamento, la vicenda dei liberali tedeschi dopo il 48, perché secondo me sono proprio i partiti politici, specialmente quello liberale. Cervelli, cosa dobbiamo fare dopo Cervelli? Cosa studia lui? Beh, vabbè, insomma, questo lo indicavo come programma, poi se lo svolge lui meglio, no? Dicevo, studiare appunto il comportamento di questo partito, le sue contraddizioni, le sue ambiguità, perché probabilmente fu proprio questo partito a fare da tessuto connettivo fra queste due parti, fra questi due elementi, diciamo tecnicamente, almeno razionalmente, inconciliabili. Bene, ora venendo al secondo periodo, che cerco di esaurire, io sto prendendo un po' di tempo, ma al secondo periodo, quello che concerne più direttamente l'opera di Gneist, diciamo che se negli anni 70 in Prussia, ma diciamo fin dagli anni 60, si ricomincia a parlare di giustizia amministrativa e lo si fa, guarda caso, nel contesto di una grande riforma dell'amministrazione che tutto sommato perfezionò, ecco, per molti aspetti, la vecchia riforma di Freiherr von Stein 1808, creando organi di governo autonomo anche nelle campagne, laddove appunto Stein non era riuscito in quest'opera, per il fatto che le campagne, i circoli e le comunità rurali non avevano ancora quella capacità fiscale che avrebbe consentito loro di strutturarsi, di creare anche, di porsi come enti di governo autonomo. Ve lo dicevo, se si comincia a parlare di questo in questi anni, è soprattutto per una ragione, per garantire, dice Gneist, e diciamo conformemente anche alla volontà di Bismarck e dei conservatori, garantire tutto sommato la Unparteilichkeit der Verwaltung, garantire cioè che l'amministrazione sia imparziale, ma imparziale in che senso? Sia nel senso di indipendente, quindi di essere autonoma nel suo operato, sia soprattutto, oltre a questo, al fatto di non essere soggetta alle intromissioni dei partiti. Cioè il punto secondo Gneist è proprio quello di evitare che gli uffici, le cariche amministrative possano essere egemonizzati, possano essere lottizzati dai partiti politici. E questo per il fatto, dice Gneist, che lo Stato rimane in qualche modo depositario di un interesse e di valori universali, laddove invece appunto i partiti politici e l'organo rappresentativo che è il Parlamento restano comunque depositari di interessi particolari, economici e non etici e non universali, e quindi in qualche modo non debbano avere, come invece è successo per esempio, dice Gneist, in Francia. Gneist arriva a dire una cosa di questo genere: se la Costituzione inglese, il diritto amministrativo inglese, non è stato recepito convenientemente, è solo per il fatto che non si è capito che sia questa Costituzione che questo diritto amministrativo sono maturati sulla base del local government, sulla base del self-government. Self-government che, dice Gneist, non si è avuto nel continente per la ragione che le comunità, i circoli, nati in origine nel Medioevo come associazioni economiche, non hanno potuto divenire, come in Inghilterra, degli enti amministrativi. E questo perché? Perché sul continente si è avuta la fase del Beamtenstaat, la fase della monarchia assoluta. Sarebbe a dire che, a differenza dell'Inghilterra, il continente ha conosciuto che cosa? La spogliazione di questi, di queste comunità, di questi, diciamo, comunità insomma rurali, spogliazione di qualsiasi loro competenza, specialmente sul piano della giurisdizione. I tribunali locali sono stati in qualche modo, hanno perso completamente di rilevanza a vantaggio di quelli dello Stato. Il diritto comune ha perso di rilevanza a vantaggio di un diritto elaborato dai giuristi di scuola romanistica che collaboravano col monarca. Tutto questo ha portato a un deperimento della vita locale, della vita, diciamo, della vita locale, al punto che queste comunità non hanno potuto progredire e divenire organi di amministrazione, così come invece è accaduto in Inghilterra. A questo punto però, dice Gneist, una volta superata la fase, diciamo, dell'assolutismo, una volta affermatasi una monarchia, una forma costituzionale in concomitanza con una società industriale ove i rapporti di possesso tendono a modificarsi, tendono a trasformarsi in maniera molto più veloce che in passato, e fanno da base, tutto sommato, per la creazione del diritto stesso, perché secondo Gneist il diritto nasce proprio da qui, cioè dai rapporti economici, dalla loro, potremmo dire, multiformità e dal loro sviluppo. A questo punto, dice, forse è possibile, anzi si deve assolutamente fare in modo che i sudditi, quelli che un tempo erano sudditi, riprendano a partecipare alla vita del diritto, cioè in qualche modo siano partecipi non solo della creazione del diritto tramite l'organo parlamentare, ma anche della gestione, dell'amministrazione del diritto e quindi compiti giudiziari tramite organi di giustizia amministrativa inseriti in un contesto di local government. Ecco, il senso della riforma amministrativa prussiana e della riforma della giustizia amministrativa dipende proprio da questo, cioè fare in modo che l'amministrazione sia garantita nella sua indipendenza tramite la partecipazione di elementi, di funzionari che non siano di nomina regia, ma siano nominati dal basso, quindi eletti dalla popolazione del loro distretto, del loro circolo, che non siano magistrati di scuola o di toga, ma siano in qualche modo gli eredi, se vogliamo, dei vecchi Schöffen, dei vecchi Scabini, della giustizia premoderna, dei tribunali premoderni, e che soprattutto rivestano queste cariche a titolo onorario, così come le rivestivano in Inghilterra i giudici di pace. A titolo onorario perché, secondo Gneist, solo nel momento in cui un funzionario è economicamente indipendente, cioè può bastare a se stesso, può agire in senso imparziale, può garantire dell'imparzialità del suo operato. E allora cosa succede? Che praticamente quella che è la grande, la grande innovazione della riforma amministrativa prussiana del 72, cioè il Kreis, specialmente il circolo rurale, è strutturato a livello di Kreisausschuss, cioè di giunta del circolo come organo di giustizia amministrativa, nel senso di comprendere un presidente e sei membri eletti dall'assemblea del circolo, fra persone che siano proprietari o di terre o di miniere o di industrie site all'interno del circolo, quindi persone economicamente indipendenti, che oltre ad avere i diritti civili e politici siano anche nella condizione di amministrare e disporre il loro patrimonio, cioè che siano effettivi proprietari, nel senso che per esempio il figlio di un industriale non avrebbe potuto rivestire queste cariche perché non era proprietario di un'azienda che continuava ad appartenere a suo padre. Sarebbe dire allora che il discorso che fa Gneist è fatto apposta per evitare che da un lato ci sia questa intromissione, questa ingerenza parlamentare nell'operato dell'amministrazione, e dall'altro lato per riallacciare l'amministrazione tedesca a un'esperienza che sicuramente era stata quella inglese, ma che poi secondo Kneist, e qui con un ragionamento di tipo assolutamente storicistico, era stata già dei tedeschi in epoche molto lontane, all'epoca in epoca sassone, tanto appunto da potersi in qualche modo instaurare in Inghilterra per effetto della dominazione sassone, e che era proprio legata a questa, diciamo, struttura locale, di amministrazione locale, di comunità locali, con il loro tribunale, con il loro diritto comune. Secondo Kneist, questo passato, che in qualche modo in Germania era cancellato, essendo però, appartenendo però ugualmente al popolo tedesco, poteva essere riattualizzato in quel momento, reintrodotto in qualche modo nel contesto dello Stato. Naturalmente il punto che rimane da discutere, e che poi farà discutere soprattutto i critici di Kneist, specialmente gli austriaci, e parlo di Lorenz von Stein, e parlo di Lehmayr, e parlo di Rösler, i quali appunto giudicheranno, criticheranno questa riforma della giustizia amministrativa, sarà proprio questo, il fatto che comunque questi organi di giustizia amministrativa, che sono appunto la giunta del circolo, la giunta del distretto e il tribunale superiore, Oberverwaltungsgericht, creato nel 75, continuano però a non essere dei tribunali. In che senso? Nel senso che il loro compito fino all'83 e poi anche dopo continuerà ad essere quello di accogliere i reclami e di decidere se procedere per via deliberativa o se invece trasmetterli ai tribunali tramite una procedura di contenzioso. Decidere però in che termini? Nei termini in cui decideva il Consiglio di Stato francese, cioè in termini assolutamente arbitrari, senza che queste loro decisioni fossero in qualche modo orientate da norme di legge. In altre parole, l'interesse che questi organi avrebbero dovuto difendere era un interesse che doveva essere determinato in luogo, all'interno di questo collegio, di volta in volta. Non era disciplinato da nessuna norma esterna. Tant'è vero che poi, nonostante che nell'83 venga in qualche modo formalizzata anche la procedura di contenzioso amministrativo, cioè quella procedura per cui un cittadino in certe questioni, in certte materie, stabilite dal legislatore, avrebbe potuto anche intraprendere un'azione diretta contro lo Stato, bene, nonostante questo ci si continua a chiedere in Prussia se poi di fatto questa procedura abbia seguito, perché di processi di questo genere non ne vengono celebrati, si continua a procedere per via deliberativa. In realtà quello che interessava Kneist era proprio questa questione, cioè fare in modo che comunque, essendo preservata l'indipendenza dell'amministrazione, anche il cittadino non fosse nella condizione di poter intraprendere un'azione diretta contro lo Stato, cioè fare in modo che comunque lo Stato non comparisse come parte in causa di fronte ad un giudice. E per far questo Kneist sosteneva appositamente che la giustizia amministrativa, a differenza di quanto pensava sia lo stesso Stein, sia più tardi Behr e compagnia, non doveva assolutamente servire a difendere degli interessi privati contro l'amministrazione, ma doveva essere soprattutto, come di fatto fu in quest'epoca, un sistema di controllo, un meccanismo di controllo insito nell'apparato amministrativo che semplicemente controllasse in termini di legalità l'operato dei funzionari, cioè semplicemente doveva essere un organo esclusivamente destinato a questioni di diritto pubblico. Il cittadino naturalmente avrebbe potuto ottenere ugualmente giustizia per via implicita, cioè una volta che l'operato di questi organi si fosse verificato implicitamente anche il cittadino avrebbe avuto la sua giustizia. Ma rimane il fatto che questo sarebbe stato sempre comunque un requisito secondario. L'azione dell'individuo contro lo Stato sarebbe stata comunque un'azione mediata, mai un'azione diretta. E questo è il punto che fa della giustizia amministrativa prussiana un fenomeno del tutto anomalo nel suo tempo e che la rese sempre discutibile sia a quel tempo sia in seguito. C'è appunto questo fatto che tarpare, di essere una creazione, una formazione bastarda a mezza strada fra il diritto francese e il diritto inglese, che tutto sommato lasciava irrisolte le questioni principali poste per l'appunto dal problema della giustizia, cioè come fare appunto fin dagli inizi a tutelare l'individuo, gli interessi individuali dallo Stato. Grazie molto. Domande specifiche di chiarimento? La citazione di Insel, dove... è preso da un saggio che si chiama Preußen sind Entwicklung zum Rechtsstaat. Comodo, Rex Stein. Chiarimento.